Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Si può dire che in tutta la mia fanciullezza io non conobbi altro essere femminile che Immacolatella. Nel mio famoso codice delle certezze assolute, nessuna legge riguardava le donne e l'amore, perché nessuna certezza, tolto l'affetto materno, poteva darsi per me riguardo alle donne. Il più grande amico di mio padre, Romeo Boote, le odiava. Ma mia madre, come donna, era stata anch'essa una ripudiata per lui? Questa domanda era un motivo di diffidenza fra me e l'ombra dell'Amalfitano, e rimaneva senza risposta. Quanto a mia madre, forse non più di un paio di volte in tutta la nostra vita mi avvenne di udirla nominare da mio padre. Ma fu solo di sfuggita e per caso. Mi rimane il ricordo di come la sua voce, su quel nome, sembrasse raccogliersi per un attimo quasi teneramente e poi subito sorvolare via con una fretta acerba e schiva. Egli aveva l'aria, in tali occasioni, di un bel gatto esotico, nottambulo e impunito, il quale si fermi un attimo a riguardare, sfiorandola con zampa di velluto, la fredda pellicetta di una gatta esanime. Io, certo, avrei desiderato con ardore che egli mi raccontasse qualcosa della mia cara madre. Ma rispettavo il suo silenzio, ben comprendendo che doveva essergli troppo amaro tornare al ricordo di quando la sua sposa era morta. E anche su un'altra morta, egli manteneva un costante silenzio. Su mia nonna, la tedesca. Contro costei, però, egli doveva nutrire nel silenzio un qualche biasimo terribile. O almeno io così dedussi da un unico e breve episodio accaduto fra noi. Un giorno, in camera sua, mentre lui distratto fumava qualche passo da me, io, frugando in mezzo a certi libri nell'armadio, mi trovai fra le mani una fotografia che non m'era mai capitato di vedere prima, raffigurante un gruppo di fanciulle circa della stessa età, fra le quali una, in particolare, era contrassegnata da una crocetta in chiostro. Costei, su cui naturalmente il mio sguardo si fermò con maggiore interesse, mi apparve, nel breve minuto che potei guardarla, come una ragazzona abbastanza comune, vestita con una camicetta e una gonna e recante un nastro nei capelli. Aveva un femmineo e florido petto rinserrato sotto la camicetta bianca, ma per il resto, nelle forme del corpo, come nei lineamenti del viso, era troppo grande, pesante e squadrata per essere bella. Però tradiva, nella sua posa romantica, un bisogno quasi patetico di sentirsi debole e graziosa. Sotto la fotografia erano scritte delle parole in lingua tedesca, e in più si riconosceva, a dispetto della sua mediocre bellezza, qualche vaga rassomiglianza che mi fece intuire prontamente chi ella fosse. Subito una curiosità naturale mi spinse a ricercare da mio padre una conferma della mia scoperta, e corsi a lui, mostrandogli la fotografia e domandandogli se quella donna bionda non fosse la mia nonna della Germania. A ciò, riscotendosi dai suoi pensieri distratti, egli scrutò rapido e sgarbato quel cartoncino e con bruschezza me lo ritolse dalle mani. «Che razza di reliquie vai pescando?» mi disse. «Già, è tua nonna. Sì, è mia madre», ammise poi in tono scostante, sottolineando «è mia madre» con una smorfia quasi volgare di ostentato ripudio, e soggiunse piano, a denti stretti, «anzi, per fortuna, fu». A queste non aggiunse altre parole, ma andato al cassettone vi gettò la fotografia dentro il cassetto più basso, che brutalmente richiuse col piede. E in quell'atto il suo viso rivoltato dal fastidio sembrava dire «sta lì, nefasta, pessima, insopportabile femmina, e non farti rivedere mai più d'ora in poi». Fu tutto. Ma bastò a insinuarmi un sospetto confuso che la mia nonna paterna fosse stata in vita una orchessa o altra peste simile. Più tardi mi avvenne di gettare un'occhiata dentro quel cassetto, ma la fotografia ne era scomparsa. Certo, mio padre doveva averla riposta in qualche altro nascondiglio ancora più nero. In conclusione, la scienza di mio padre non illuminava affatto la mia ignoranza su quanto riguarda le donne. Talvolta capitava nell'isola qualche donna forestiera che scendeva sulla spiaggia e si spogliava per bagnarsi senza nessun rispetto né vergogna, come fosse un uomo. Io, uguale in questo agli altri procidani, non provavo nessuna curiosità per i bagnanti forestieri. Mio padre sembrava considerarli gente ridicola, odiosa, e insieme a me rifuggiva dai luoghi dove essi si bagnavano. Li avremmo scacciati volentieri, perché eravamo gelosi delle nostre spiagge. E quelle donne là, nessuno le guardava. Per i procidani, e anche per me, esse non erano donne, ma quasi degli animali pazzi, discesi dalla luna. A me non veniva neppure in mente che le loro forme svergognate potessero avere una qualche bellezza. E così mi pare di avere detto quasi tutte le idee che avevo allora sulle donne. Quando nasceva una femmina, procida, la famiglia era scontenta e io pensavo alla sorte delle femmine. Da bambine esse ancora non apparivano più brutte dei maschi, né molto diverse, Ma per loro non c'era la speranza di poter diventare, crescendo, un bello e grande eroe. La loro sola speranza era di diventare le spose di un eroe, di servirlo, di stemmarsi del suo nome, di essere la sua proprietà indivisa che tutti rispettano e di avere un bel figlio da lui somigliante al padre. A mia madre tale soddisfazione è mancata. Essa ha avuto appena il tempo di vedere questo figlio oscuro, con gli occhi mori, tutto l'opposto di suo marito Wilhelm. E se per caso questo figlio, benché Bruno, era destinato a diventare un eroe, lei non ha potuto saperlo, perché è morta. Nella sua fotografia istantanea, che è l'unica immagine a me nota di lei, mia madre non appare più bella delle altre donne. Ma da ragazzino io, dinanzi a quel suo ritratto che guardavo e rimiravo, non mi ero mai domandato se fosse brutta o bella e nemmeno pensavo di paragonarla alle altre. Era mia madre e non so più dire quante cose incantevoli significasse per me a quel tempo la sua maternità perduta. Essa era morta per causa mia, come se io l'avessi uccisa. Io ero stato il potere e la violenza del suo destino, ma la sua consolazione mi guariva dalla mia crudeltà. Anzi, questa era la prima grazia fra noi due, che il mio rimorso si confondeva nel suo perdono. A riguardare nella memoria il suo ritratto, ma vedo che era appena una ragazzina. La sua età, difatti, non ha toccato nemmeno 18 anni. Ha un contegno serio e raccolto, come le grandi, ma la sua faccia incuriosita è da bambina e il disegno della fanciullezza si riconosce ancora nella sua persona deformata e male infagottata nelle vesti di donna incinta. A quel tempo, però, io nel suo ritratto vedevo una madre. Non potevo vederci una creatura puerile. L'età che le davo era, se ci penso, forse una maturità, grande come l'arena e come la stagione calda sul mare. Ma forse anche un'eternità, virginia, gentile e senza mutamento, sì, come una stella. Essa era una persona inventata dai miei rimpianti e quindi aveva per me ogni gentilezza desiderata e diverse espressioni, voci diverse. Ma soprattutto, nella nostalgia impossibile che ne avevo, io pensavo a lei come alla fedeltà, alla confidenza e alla conversazione. Insomma, a tutto ciò che i padri non erano, secondo l'esperienza mia. La madre era una che avrebbe atteso a casa i miei ritorni, giorno e notte pensando a me. Essa avrebbe approvato tutte le mie parole, lodato tutte le mie imprese e vantato la bellezza superiore dei Bruni, dai capelli neri, di statura media e magari anche bassetta. Guai a chi osasse in sua presenza sparlare di me. Nel suo concetto, senza discussione, io sarei il massimo personaggio del mondo. Il nome Arturo per lei è uno stendardo d'oro. E nella sua idea basta dire questo nome perché tutti capiscano che si parla di me. Gli altri Arturi esistenti nel mondo sono tutti imitatori, gente secondaria. Thank you. Oltre che di adulazioni, io vivevo del tutto digiuno di baci e di carezze, e questo per l'orgoglio era un onore. Ma talvolta, specie durante le sere, quando mi ritrovavo solo fra i muri di una stanza e incominciavo a rimpiangere la madre, per me madre significava precisamente carezze. Sospiravo il suo corpo grande, santo, le sue manucce di seta, il suo fiato. Il mio letto nelle notti d'inverno era freddo o gelido, e per riscaldarmi io non avevo che addormentarmi abbracciato con Immacolatella. Io, come non credevo in Dio e nelle religioni, così non credevo neppure nella vita futura e negli spiriti dei morti. Ad ascoltare la ragione, sapevo che tutto quanto restava di mia madre era rinchiuso sottoterra nel cimitero di Procida. Ma la ragione, davanti a lei, si ritraeva, e senza rendermene conto, io per lei credevo addirittura in un paradiso. Che cos'altro era, difatti, quella specie di tenda orientale alzata fra il cielo e la terra e portata dall'aria, in cui lei dimorava sola, oziosa e contemplante, con gli occhi al cielo come una trasfigurata? Là, ogni volta che io ricorrevo a mia madre, essa si presentava naturalmente ai miei pensieri. Più tardi è venuto il giorno che io non l'ho più cercata. È sparita. Qualcuno ha ripiegato la ricca tenda orientale e l'ha trasportata via. Ma finché ero un ragazzino, io mi rivolgevo a lei tutte le volte che gli altri pregano, come un sentimentale. Mia madre andava sempre vagando sull'isola ed era così presente, là, sospesa nell'aria, che mi pareva di conversare con lei come si conversa con una ragazza affacciata al balcone. Essa era uno degli incantesimi dell'isola. Io non andavo mai alla sua tomba, perché ho sempre avuto in odio i cimiteri e tutte le insegne della morte. Ma pure, una delle malie che mi incatenavano a Procida era quella piccola sepoltura. Poiché mia madre era sotterrata in quel punto, quasi mi pareva che la sua fantastica persona stesse prigioniera là, nell'aria celeste dell'isola, come una canaria nella sua gabbia d'oro. Forse per questo, appena andando in barca, io mi allontanavo un poco sul mare, subito mi prendeva un'amarezza di solitudine che mi faceva tornare indietro. Era lei che mi richiamava, come le sirene. Ma in verità c'era poi un'altra ragione, ancora più forte, che quando uscivo al largo mi faceva presto rivoltare la prua verso Procida. Il sospetto che, nella mia assenza, potesse ritornare mio padre. Mi sembrava insopportabile di non essere anch'io sull'isola quando lui c'era, e per questo, sebbene fossi libero e amassi tanto le grandi imprese, io non uscivo mai dal mare di Procida verso altre terre. Spesso ero tentato di fuggire sulla mia barca, alla ricerca di lui, ma poi capivo quanto fosse assurda la speranza di poterlo ritrovare fra tante isole e continenti. Appena pensavo, lui, in questo medesimo istante, subito sentivo dentro di me un grande strappo, come se nella mia mente uno schermo nero venisse lacerato, e passavano baleni di romanzi meravigliosi. In queste apparizioni della mia fantasia, mio padre non era quasi mai solo. C'erano intorno a lui le persone indistinte dei suoi seguaci, e presso di lui, sempre al fianco suo come un'ombra, l'eletto di quell'aristocrazia, Pugnale Algerino. «Aspetta d'essere grande per partire con me!» In attesa di tale epoca mitologica, per il presente vagheggiavo da tempo un'altra speranza, che non osavo mai confessare a mio padre, perché mi pareva troppo ambiziosa. Finalmente, una sera mi decisi e gli chiesi arditamente: «Ma non potresti una volta o l'altra portare con te qua a Procida qualcuno degli amici tuoi?» Dissi qualcuno degli amici tuoi, ma pensavo soprattutto a uno, Pugnale Algerino. Da principio mio padre non mi dette altra risposta se non un'occhiata così scostante che io ne ebbi un senso di freddezza fin sul cuore. Ma vidi i suoi occhi cangianti animarsi, come se nel guardarmi egli mutasse pensiero. Sorrise e io riconobbi quel sorriso favoloso che mi ricordava l'espressione delle capre e che già un'altra volta era stato il primo segnale delle sue confidenze. Anch'io gli sorrisi, benché ancora piuttosto corrucciato, ed egli, aggrottando i cigli, uscì in questa straordinaria dichiarazione. «Che amici! Sappi che qua a Procida per me c'è un amico solo e non deve esserci che lui. Io non ci voglio nessun altro e questo divieto è eterno». A simile discorso io mi sentii quasi trasfigurare. Chi era l'unico amico suo qua a Procida? Era dunque possibile che davvero mio padre intendesse parlare di me? Fissandomi severamente, egli riprese: «Guarda là, lo sai di chi è quel ritratto?» E additò la fotografia dell'amalfitano che stava sempre nella sua camera. Allora io mormorai: «Di Romeo!» Ed egli esclamò in tono di superiorità mordace: «Benissimo, guaglioncello!» «Quando venni qua a Procida la prima volta», prese poi a raccontare mio padre, «mi accorsi subito che questa per me era un'isola deserta. Ho accettato di chiamarmi Gerace perché un nome ne vale l'altro. Lo dice pure una poesia di quelle che le ragazze scrivono sull'album dei pensieri. Che importa il nome? Chiama pure la rosa con altro nome. Avrà men dolce odore?» Per me Gerace significava futuro proprietario di poteri di rendite. E così mi fregiai di questo cognome procidano. Ma in questo cratere spopolato non ho avuto che un solo amico. Lui. E se Procida è diventato il mio paese, non fu per i Gerace, ma per lui. Io non avevo nessun altro amico, nessun posto dove andare, e per di più ero sempre senza un soldo in tasca. Difatti tuo nonno, prima di lasciarmi erede, non sborsava quattrini, né io gliele chiedevo. Piuttosto preferivo chiederne a lui, alla Amalfitano. Ma lui me ne dava a malincuore, pochi, giusto per le sigarette. Perché se disponevo di soldi aveva paura che potessi scappare via dall'isola. Ciò che lo angustiava di più era la paura che un giorno o l'altro, per impazienza, io piantassi Procida. Appena tardavo un po' più del previsto, subito sospettava che me ne fossi partito senza dirgli niente, magari mi trovassi già al largo della costa. Invece, io non m'allontanai mai dall'isola, durante quei 2 anni che lui ancora visse. Finché una notte, mentre io dormivo, come al solito, giù alla casa di tuo nonno, lui morì d'improvviso, qua, solo, senza nemmeno potermi salutare. Fu strano per me il giorno dopo. Lì per lì, io volevo convincermi di prepotenza che si trattava solo di uno svenimento. E addirittura mi detti a inveire contro il medico, gridandogli che era un medicastro di paese, un disgraziato, e per questo diceva che non c'era più niente da fare, ma che invece il suo dovere era di cercare subito un rimedio, una medicina, una puntura. Avrei preteso, insomma, che il medico lo risuscitasse senza indugio, tanto ero fuori di me stesso. E quando poi è andato via il medico, mi trovai solo con quel morto. Provai una scossa di nervi terribile e mi misi a singhiozzare. Il pianto mi infuriava, insultavo il morto, chiamandolo vigliacco, buffone, schifoso, perché era morto senza nemmeno salutarmi. Questa mi pareva la peggior cosa, la più inaccettabile. Non so quale importanza unica e fatale io davo a quel saluto. E m'arrabbiavo, ripensando a tutte le volte che, pur senza avere nient'altro di speciale che m'occupasse, per un'insofferenza del mio carattere o per fare il bravo, avevo lasciato l'Amalfitano qua, solo, ad aspettare inutilmente la mia visita per giornate intere. In realtà avevo fatto benissimo. È meglio non viziare troppo il prossimo e mandarlo ogni tanto all'inferno, altrimenti sarebbe la fine. La nostra vita andrebbe avanti pesantemente, come un barcone carico di zavorra, e ci porterebbe a fondo a morire asfissiati. Ma in quel momento là i miei nervi non volevano conoscere ragioni, e tutte le ore e giornate che avevo trascorso a girare lontano dalla casa dell'Amalfitano per farlo sospirare e fare il difficile mi parevano addirittura dei tesori, sperperati così, senza nessuna soddisfazione mia. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.